I. Ascolta e completa il testo. Guglielmo Marconi fu scienziato e inventore. Nacque a Bologna nel 1847. Realizzò e perfezionò il telefono senza fili. Iniziò nella villa paterna di Pontecchio le sue esperienze sulle onde elettromagnetiche per stabilire comunicazioni a distanza senza fili. Nel 1895 ottenne i primi risultati. Trasmise e ricevette segnali a circa 2 chilometri di distanza. Nel 1901 effettuò il primo collegamento radiotelegrafico transatlantico fra Poldhu, Cornovaglia, e San Giovanni di Terranova, Canada. Nel 1909 fu premio Nobel per la fisica e fu il primo italiano a ricevere questo riconoscimento. Nel 1914 fu nominato senatore a vita. Nel 1930 divenne il presidente dell'Accademia d'Italia. Morì a Roma nel 1937.